Il 10 giugno abbiamo l'opportunità di presentare un film, un breve film documentario dal titolo Vale, l'ultimo incontro, ed è un film che ci parla di Valeria Imbrogno. Valeria Imbrogno è stata la compagna di Fabiano Antoniani, che noi conosciamo tutti con il nome di DJ Fabo, e conosciamo anche la disobbedienza civile che Marco Cappato ha fatto nel momento in cui ha accompagnato Fabiano Antoniani in Svizzera, perché il desiderio di Fabiano era appunto quello di accedere alla morte volontaria, accompagnata appunto dalla possibilità di farlo nel momento in cui ha ritenuto le sue sofferenze intollerabili. È un film fatto da Teresa Sala e Stefano Zoia. Noi crediamo che valga la pena venire a vedere questo film, perché la storia di Valeria è una bella storia. Valeria è, oltre ad essere appunto stata la compagna di Fabiano, è una psicologa, è stata una pugile professionista, e questo in qualche modo spiega anche, come dire, la sua determinazione nell'affrontare determinate situazioni che le sono capitate nella vita. E attualmente Valeria è la responsabile del numero bianco dell'associazione Luca Coscioni, a cui le persone possono telefonare per chiedere ogni necessaria informazione in merito ai diritti sul fine vita, l'eutanasia, appunto l'accesso al suicidio medicalmente assistito, il testamento biologico. Insomma, è una bella storia e io credo che valga veramente la pena di essere conosciuta e vista. Sarà presente ovviamente Valeria, e conoscendola non si sottrarrà a nessun tipo di domande da parte degli spettatori. Ci sarà ovviamente, penso, anche il tempo e i modi per parlare delle ultime novità in ambito giuridico, che riguardano tra l'altro anche un po' l'Emilia Romagna, no? Sì, riguardano l'Emilia Romagna, perché così come in altre regioni, anche in Emilia Romagna abbiamo raccolto delle firme per una proposta di legge regionale. Io sono una tra le promotrici di questa proposta di legge regionale, che purtroppo in questo momento è in una fase di stallo, nel senso che la proposta di legge regionale mira e ha come obiettivo quindi quello di disciplinare le modalità di accesso al suicidio medicalmente assistito, cioè alla morte volontaria, proprio alla luce e in ragione della sentenza della Corte Costituzionale, che ha stabilito l'esistenza di un diritto per i malati che soffrono di una malattia incurabile e sono tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale, sono capaci di intendere e di volere e hanno una malattia che provoca sofferenze fisiche e psichiche intollerabili. Questi malati possono chiedere di essere accompagnati alla morte. Il problema è che il primo malato che ha provato a fare questo tipo di richiesta alla sua azienda sanitaria locale nelle Marche, Federico Carboni, ha dovuto aspettare 2 anni per ottenere una sorta di nulla osta all'esercizio del diritto che gli era stato garantito dalla Corte Costituzionale. Per questo qui in Emilia Romagna, così come in altre regioni, abbiamo appunto raccolto delle firme e chiediamo che la regione si doti di un disciplinare, questo disciplinare che preveda un tempo abbastanza rapido di risposta da parte dell'azienda sanitaria, tanto che il provvedimento, cioè la richiesta del paziente, dovrebbe essere evasa con appunto la verifica delle sue condizioni in un tempo massimo di 20 giorni. E la nostra proposta di legge è rimasta ferma in commissione per 6 mesi, è stata poi rimandata in aula e l'aula l'ha rimandata indietro, sempre di nuovo l'aula della nostra regione ovviamente, dell'assemblea legislativa, l'ha rimandata indietro e ora si attende di nuovo un esame preliminare da parte della commissione, che ha 6 mesi di tempo dal mese di febbraio scorso, però ad oggi non abbiamo nessuna novità, se non che l'Emilia Romagna comunque si è dotata di una delibera di giunta che in qualche modo ha fatto propri, anche se con termini diversi, la proposta degli argomenti e i tempi, le tempistiche e le modalità della proposta di legge che noi abbiamo presentato. Problema che, come probabilmente si è letto sulla stampa, la delibera di giunta regionale è stata impugnata sia a livello appunto regionale dai consiglieri di opposizione che a livello nazionale. Quindi il problema è che in questo momento noi non abbiamo garanzie per i nostri cittadini, per i nostri pazienti di ottenere delle risposte brevi, in tempi brevi e in tempi rapidi, quali appunto sono quelli poi imposti da malattie così gravi, per ottenere una verifica da parte dell'azienda sanitaria regionale. Quindi questo è un po' lo stato dell'arte nella nostra regione e un po' in tutta Italia.